Benvenute a tutte e a tutti alla puntata di approfondimento di Radio Contado Griottosa numero 9. Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado. E vi ricordo che queste puntate dedicate agli approfondimenti di alcune agricoltrici e agricoltori del sud dell'Italia le abbiamo grazie ai contributi che ci ha messo a disposizione Gervasio Ungolo, uno dei redattori di Rivista Contadina, che si occupa appunto di fornire degli sguardi e delle esperienze che arrivano dall'area della Basilicata della Puglia. Oggi sarà la volta di Tonia Di Leo, una agricoltrice appunto di quei territori. Anche lei è impegnata, come vedremo, in una di quelle nuove attività che fanno i nuovi contadini e che è appunto il lavoro di rete sul territorio. Quindi ringraziamo sia Tonia che Gervasio per averci messo a disposizione questo materiale che vi ricordo trovate nella rubrica di Rivista Contadina che si chiama Raccolte e Racconti, cura di Gervasio Ungolo, e vi auguro un buon ascolto. Madonna, quante scale! Che fatica! Eccoci arrivati finalmente! Buongiorno! Ecco la sua copia di Rivista Contadina. Ah, grazie, la stavo aspettando. Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org. Thank you. frisco cigi, vivo tu non ta se se frisco cigi, ci aiuta ma la nave olivella, ci aiuta ma la brama d'arcino, ci aiuta ma la brama d'arcino, di na capi mu vale stizzichi, di na capi mu vale stizzichi, ma se con un nave olivella, se con un stizzardiano. Mi chiamo Tonia Di Leo e sono la titolare di un'azienda agricola che si chiama Società Agricola Sviluppo Cereali, che è ubicata in territorio in agro di Matera. Io in realtà vivo una condizione di interregionalità in un certo senso come azienda, perché pur essendo un'azienda lucana ho anche dei terreni in Puglia, e proprio questa mia condizione di interregionalità che mi ha spinto a lavorare sempre a cavallo, diciamo, delle due regioni, cercando comunque di creare una rete intorno a me di aziende che potessero, con cui potessimo declinare gli stessi obiettivi. Cosa produci in azienda? La mia azienda è prevalentemente, fino a qualche anno fa era prevalentemente cerealicola, produco cereali, leguminose, e ho avviato delle attività di trasformazione anche, non chiudo, diciamo, le mie vendite con i commercianti e gli stoccatori locali, ma in genere trasformo, quindi arrivo a materie prime trasformate o prodotti finiti, prodotti da forno, prodotti pastari anche. In genere tendo a diversificare, comunque a produrre del cibo e da far arrivare direttamente sulle tavole dei consumatori. Proprio di quanti ettari l'azienda? L'azienda è circa 25 ettari. E appunto, ripeto, tra la Puglia e la Basilicata sono dislocati i terreni, però negli ultimi anni a questi 25 ettari quasi sempre si sono aggiunti altri ettari che ho trovato in comodato d'uso, in affitto, che sono però di tipo irriguo, perché diciamo, oltre alla cerealicoltura, che come ti ho detto, no, mi ha dato l'opportunità di scoprire questi nuovi mercati a livello territoriale, quindi anche di misurarmi con una rete di di operatori, no, che lavorano all'interno dell'agroalimentare, ho pensato anche di concentrare le mie attenzioni proprio per avere anche un paniere completo come azienda da poter proporre alle persone, ai cittadini, ai consumatori che seguono le mie attività. Ho pensato anche di organizzarmi con degli orti, e quindi ho cominciato delle esperienze ortive, ho lavorato anche in agro di Montescaglioso, quindi mi sono spostata parecchio rispetto, diciamo, alla zona che in cui è locata la mia azienda, perché la curiosità, il bisogno di acqua, il bisogno di fare rete, anche di conoscere aziende nuove con cui poi ho fatto dei piccole reti, no, piccoli contratti di collaborazione, mi hanno dato l'opportunità di fare un percorso come agricoltore, quindi di crescere in questo senso. Nel 2021, no, ma in realtà già dal 2018 parte questa iniziativa, se proprio vogliamo raccontarla tutta, un'iniziativa che poi si concretizza nel 2021, mi vede, diciamo, tra gli animatori territoriali pronti a costituire il primo distretto agroecologico interregionale d'Italia, il distretto agroecologico delle Murge del Bradano, in cui comincio, diciamo, come azienda agricola, a misurarmi con altre aziende agricole con cui avevo un obiettivo comune. Perché che era quello distretto agroecologico? Agroecologico perché diciamo, mi ero approcciata al modello agroecologico. Io sono un'azienda biologica, questo non l'ho detto nella fase iniziale, essendo chiaramente un'azienda con un'asticella del biologico molto bassa, come dicono anche gli enti di ricerca che ho io, cioè nel senso che io proprio non voglio vedere niente in azienda da me. Ho solo input estremamente naturali, lavoro sulle rotazioni, su input totalmente organici, quindi vermicompost piuttosto che letame, diciamo, selezionato chiaramente attraverso aziende serie che me lo possono proporre sul territorio. E le Quindi rotazioni che applichi, quali sono? le rotazioni, io lavoro molto con le consociazioni, in genere faccio consociazioni in cui metto varie piante, arrivo a fare consociazioni anche di 20 specie differenti, o a specie o varie. Tra quali anche le varietà differenti. No, cerco di creare dei pacchetti da 20-30 specie e li distribuisco in campo. L'obiettivo è quello di tenere il campo sempre coperto, quindi la consociazione lavora perché attraverso anche poi, diciamo, comunque, come dire, l'accoglienza degli insetti, che anche a me, anche quelli servono nel mio campo. Serve un po' tutto, cioè cerco di creare, no, degli equilibri anche attraverso l'utilizzo di piante che riportino un certo tipo di insetti a lavorare sui miei campi. E la consociazione in genere la interrompo in primavera, con però in tarda primavera, quando diciamo quasi tutto è portato a granella. Faccio sfalci che comunque restano coperture estive per i campi, che mi consentano proprio di avere, diciamo, un impatto del sole, limitato, di tenere anche poi coperta quella microfauna che, si è creata nei miei terreni, perché comunque è dal 2009 che gestisco in maniera totalmente biologica i miei terreni, e quindi c'è il lavoro si vede, e quindi mi consento di tenere al coperto quella microfauna che comunque continua a sopravvivere e a lavorare, perché anche lei ha il suo, diciamo, il suo compito. E dopodiché, superata la fase estiva, quindi agosto, i mesi più caldi, quindi superato il rischio di alterare il pH dei miei terreni, vado a fare, prime piogge, un sovescio con una falsa semina sostanzialmente, una ripartenza, perché la granella nel frattempo sul campo si è maturata, perché anche se è sfalciata la pianta va avanti da sé. Quindi tutto portato a granella che matura, va sotto, ripartono campi floridi, sovescio pre-semina, diciamo, in genere quando poi faccio questo tipo di consociazioni seguono i miei grani. E se mi giù cinque a pugliare pera, e se mi giù cinque a pugliare pera, non c'è che l'uomo ti ma fa la sfiga, non sordo l'uomo ti ma non slara. E vi dico l'hanno picchiato, c'è pure sordo lo stupiato, e vi dico l'hanno picchiato, c'è pure sordo lo stupiato, e vi dico l'hanno picchiato, c'è pure sordo lo stupiato, e vi dico l'hanno picchiato, c'è pure sordo lo stupiato. Lo succi dentro la tina, dentro la tina, lo succi da, lo succi dentro la tina, dentro la tina. Va la gatta mane pide, per lo sorce dentro la tina, va la gatta mane pide, per lo sorce dentro la tina, lo sorce dentro piatto, dentro piatto lo sorce sta, lo sorce dentro piatto, dentro piatto lo sorce sta, ma la gatta cudacchiata, per lo sorce dentro piatto, ma la gatta cudacchiata, per lo sorce dentro piatto, e se mi giunto cinque a cugliare vera, e se mi giunto cinque a cugliare vera, lo cieco lo mutti, ma fa la sfiga, lo sordo lo mutti, ma non slara, e vi dico l'hanno pigliato, c'è quello sordo lo stupiato, e vi dico l'hanno pigliato, c'è quello sordo lo stupiato, e vi dico l'hanno pigliato, c'è quello sordo lo stupiato, e vi dico l'hanno pigliato, capolatino, capolatino, su ci sta, ma la gatta malandrina, vieni su ci capolatino, ma la gatta malandrina, vieni su ci capolatino, lo su ci sta, lo su ci sta, lo su ci sta, lo su ci sta, lo su ci sta, lo su ci sta, ma la gatta lascia, lascia, vieni su ci sta, la cascia, la gatta lascia, lascia, vieni su ci sta, la cascia, lo su ci sta, lo letto, lo letto, lo su ci sta, lo su ci sta, lo letto, lo letto, lo su ci sta, ma la gatta maledetta, vieni su ci sta, lo letto, ma la gatta maledetta, vieni su ci sta, lo letto, e se mi giunto cinque a cugliare vera, e se mi giunto cinque a cugliare vera, lo cieco lo mutti, ma fa la sfiga. E vi dico non lo piace, ci vuole sotto lo stupido. E vi dico non lo piace, ci vuole sotto lo stupido. E vi dico non lo piace, ci vuole sotto lo stupido. i mezzi di produzione, te ne approvvigioni da fuori oppure... Allora, ricorro a dei contoterzisti che lavorano con me, che però sono praticamente quasi tutte aziende molto vicine alla mia rete. Non amo, diciamo, ricorrere a contoterzisti che hanno mezzi molto grandi e soprattutto molto condivisi, perché è rischioso per un'azienda come la mia, per le malattie che comunque ti portano, perché accade, per le contaminazioni che ti portano, perché è complicato lavorare con i contoterzisti grossi, perché non ti stanno cioè se gli chiedi di pulirti la mente trebbe, ti guardano proprio storto, capito? Se gli dici di fare una cosa, parti tipo questo fatto lo sfalcio, cioè io è uno solo che me lo fa, perché quello che c'ha la falce che voglio io, che sia attratta, non ce l'ha più nessuno sta benedetta fa, io gli dico no, non me lo devi né tringiare, né fa... no, non devi fare nulla di tutto ciò, mi devi solo sfalciare e lasciare questa cosa qui nella mia zona, che è una zona che comunque ha, diciamo, comunque educato in un certo senso, ha un modello agricolo che è molto di stampo industriale, perché qui è così, diciamo, noi siamo questa, questo è un po' il triangolo della microglobalizzazione. Tu dicevi prima, no, quello che mi avevi detto, no, vivrai la microglobalizzazione rispetto alle tue esperienze. Io vivo una microglobalizzazione che qua è pesante, perché comunque l'Interland è fatto di grossi marchi, ci sono grossi mulini, grossi stoccatori, quindi i contoterzi sono organizzati con grossi mezzi. Quando arriva si rischia il compattamento dei terreni, perché i mezzi sono molto pesanti, quindi tu lavori per la reazione, quelle vengono e passano con un mezzo solo, tonnellate di mezzo, e hai riappiattito tutto. Quindi lavoro con piccoli mezzi di contoterzisti che lo fanno, ma sono amici con cui facciamo il percorso, hanno i mezzi e ci facciamo i lavori. L'esigenza di incontrare altri agricoltori o di mettersi in rete? È ormai una necessità, non è neanche più soltanto un'esigenza. E quello che ti dicevo, secondo me, l'unica risposta che oggi possiamo dare a un meccanismo che è chiuso su se stesso, che è il sistema che governa. Parliamo dell'agroindustria, perché questo è il campo specifico, ma ti potrei fare esempi che riguardano un po' tutto. Parliamo dell'agroindustria, ci sono meccanismi coercitivi oggi, non guardano né al benessere del pianeta né al benessere delle persone. È chiaro che resta a quelli come me, e per fortuna non siamo pochi, sul territorio, però c'è la necessità oggi di prendere di petto la situazione, e lo dobbiamo fare noi agricoltori, perché diciamo è, come dire, un po' la responsabilità sociale che ci deve guidare. Siamo produttori di cibo e quindi abbiamo l'obbligo, in questo momento in cui ci rendiamo conto che affidare le nostre materie prime è diventata una scommessa, affidarle agli altri. Abbiamo necessità di controllare le materie prime. Io dico sempre, è politicizzata, perché io non faccio solo l'agricoltore, io sono un agricoltore che fa politica sul territorio, perché questo significa parlare di politica per me, no? Significa parlare delle cose che accadono, delle cose che ci tengono insieme. Io oggi voglio, penso, no, soltanto che il meccanismo, diciamo, del sistema, questa cosa che tiene tutti impegnati, no, in un modello di consumo sfrenato, di consumo che è basato su un modello di sfruttamento, sfruttamento del pianeta, degli animali e delle persone. Proprio questa cosa si può interrompere se si prende coscienza che quel sistema ha voluto cose importanti, ha voluto le materie, ha voluto le risorse del pianeta, ha messo le mani sull'oro, su tutte le cose preziose, no? Ha voluto il petrolio, ha voluto le cose importanti. Adesso cosa vuole? Vuole le materie prime, perché anche controllare quelle hanno capito che, ormai non è che l'hanno capito mo', perché dagli anni 60 che aveva avanti il meccanismo di controllo, che poi è diventato attivo negli anni 80, 90, adesso è quasi incontrovertibile, almeno ci sembra incontrovertibile. Se tu vai nelle grandi città è in un certo senso incontrovertibile, si vende solo attraverso le grandi catene. Qual è l'accesso al cibo attraverso le grandi catene? Noi sul territorio, attraverso il distretto agroecologico che abbiamo costituito, abbiamo deciso di cooperare, perché l'obiettivo è quello di mettere su una massa critica di produttori che possano dare un segnale. In questo momento stiamo lavorando su un progetto importante, secondo me anche abbastanza, che può diventare un buon veicolo, il progetto del pane. Abbiamo creato una filiera attraverso il distretto, una filiera territoriale, abbiamo messo su un modello di produzione e consumo, perché non parliamo solo di produzione. Il distretto, dicevo prima, non l'ho detto, però è un aspetto importante. Il distretto non è solo un distretto produttivo. Il distretto che abbiamo creato è un distretto partecipativo, in cui noi accanto ai produttori ci abbiamo messo la società civile. E grazie a questo meccanismo di interazione che siamo partiti nel progetto che vi dicevo poc'anzi, no? Il progetto del pane. Cosa ci tiene insieme? Il pane è uno strumento, il pane tiene insieme le persone, tiene insieme i produttori e i consumatori in un percorso di consapevolezza che serve a noi produttori a spiegare quello che facciamo, i meccanismi delle consociazioni, cioè quanto amiamo il nostro terreno, cioè che noi ci parliamo con le nostre piante, che c'è gente che fa questo, produce cibo e ti può fare pure il pane. Cioè non è impossibile che questa cosa qua venga da sé. Però è necessario volerlo, quindi è necessario attivare meccanismi di consapevolezza che stanno anche nel confronto tra le persone, perché quello manca. Oggi i consumatori lamentano, noi nel distretto abbiamo trovato spesso consumatori che lamentano l'ignoranza, che è data anche da un sistema che non trasferisce le giuste informazioni, trasferisce quel cavolo che vuole lui. Quindi che cosa dobbiamo fare? Fare chiarezza, rendere trasparente il tutto, e noi con la filiera del pane lo stiamo facendo. Siamo partiti, abbiamo messo su le nostre semole rimacinate, stiamo lavorando in gruppi di agricoltori, perché l'obiettivo non è vendere la semola, l'obiettivo è stare insieme nel vendere la semola. Quindi si procede con dei miscugli, ogni volta che diciamo viene prodotto il nostro pane, viene fatto con la semola di più produttori. Ci siamo inventati una sorta di meccanismo l'agroindustria ha sempre detto, no? C'è sempre, come dire, beffeggiato. Qui in questa zona si è sentito molto sta cosa, gli agricoltori erano molto risentiti. L'agroindustria beffeggiava dicendo che col nostro grano non era buono, il grano nazionale italiano non era buono, che se non arrivavano grani stranieri da lì, da qui, da su, da giù, noi non eravamo capaci di fare la pasta, non eravamo capaci di fare il pane. In realtà noi, attraverso i nostri piccoli processi artigianali, abbiamo dimostrato che le cose buone le possiamo fare anche qui, che quel meccanismo non è vero. Quindi abbiamo già messo in discussione una, come dire, diceria popolare che però era dilagante ed era arrivata anche nella testa dei consumatori. Cioè era un modo per formare la gente rispetto al fatto che era necessario avere i prodotti che venissero spostati da chi, poi da 5 multinazionali, diciamoci la verità, non è che li sposto io o li sposta il collega, fosse anche che diciamo, tornassimo alla via della seta di Marco Polo, in cui l'artigiano manda il bene dall'altra parte del mondo, ci sta pure. Il problema è che qui, diciamo, rispetto al mettere le mani sopra le risorse, il petrolio, le materie prime, a controllare sono sempre gli stessi. Quindi questo meccanismo noi glielo spieghiamo ai consumatori. Allora, intanto i comuni coinvolti, abbiamo detto che il nostro è un distretto interregionale, quindi stiamo lavorando a cavallo di questa zona in un processo di coinvolgimento Quali della regioni? La Puglia e la Basilicata. Stiamo lavorando su Altamura come città, Altamura, Gravina, Acquaviva per quanto riguarda il fronte Puglia e Matera. Perché gli altri centri sono un po' troppo dislocati in questo momento, anche se abbiamo fatto il pane anche ad Accettura, abbiamo trovato un fornaio di Accettura che ha sodalizzato con il nostro progetto, abbiamo portato il pane qua con grande entusiasmo perché la gente ha capito che c'era proprio un'energia nell'aria, che questa persona voleva stare con noi ed è ancora con noi il nostro fornaio di Accettura, anche se stiamo capendo come ricontestualizzarlo nel nostro percorso perché il distretto è molto vasto. In questo momento siamo concentrati su questi centri e abbiamo anche la collaborazione, perché abbiamo costruito una vera e propria rete, dei centri di distribuzione che sono altro che dei negozi biologici o comunque cooperative ecosolidali che hanno aderito al nostro progetto e si sono resi centri di distribuzione per il nostro pane e gli altri prodotti da forno che arriviamo a produrre. Quindi stiamo lavorando bene sulla rete, ci sono le aziende che intervengono, ognuno con i piccoli quantitativi di semola, non ci sono aziende che primeggiano, ognuno deve dare il proprio contributo e capire che qua non c'è da arricchirsi all'interno del progetto assolutamente, ma c'è da fare un percorso che può portare sicuramente, perché questo è un obiettivo, a un miglioramento anche dei redditi delle aziende, perché questo deve essere chiaro, cioè qua non è che guardi l'agroecologia, che cos'è l'agroecologia? Mi dicevi, perché abbiamo scelto questo percorso? Perché noi sì, il tema ambientale, quindi aziende biologiche attente ai temi ambientali sul territorio, attive da sempre anche attraverso i movimenti, e ci siamo. Ma nell'agroecologia noi mettiamo insieme altri due aspetti che per noi sono essenziali, che sono il modello economico che tiene insieme le persone, perché il giusto reddito alle aziende deve essere messo sullo stesso piatto di un prezzo giusto al consumatore, e questa cosa qua tenendo in mezzo un prodotto sano. È un'equazione su cui non si può fallire, cioè è questo che dobbiamo creare, cioè il prezzo giusto al consumatore, l'equa remunerazione dell'azienda agricola che non la possiamo far chiudere perché se no non ci fa più il prodotto buono, e un sano prodotto in mezzo. Questo è un altro, diciamo, degli schemi dell'agroecologia che però tiene insieme un bel pezzo, perché il modello economico che a questo punto viene messo in discussione, quello attuale, non è funzionale. Le relazioni tra le aziende? No, ma c'è il modello sociale. Allora, in questo momento le relazioni si reggono sul stare insieme e sul fatto che facendo il percorso insieme, che poi è partito con un percorso è partito a febbraio sostanzialmente, in questo momento siamo come i fidanzati, ci stiamo tutti a conoscere, a riconoscere, a capire. Però abbiamo già un piccolo nucleo di aziende che stanno lavorando da febbraio e che sono già in sintonia, forse perché avevano anche come dire dei pre-percorsi, cioè un percorso già fatto insieme per altre motivazioni, ci si è ritrovati qua. Quindi c'è già una conoscenza. Ecco, la base è la conoscenza e la fiducia. Noi abbiamo capito che come aziende biologiche i marchi, certificazioni, tutta sta roba qua, fino a un certo punto ci serve, ok? Però il punto è la fiducia fra le persone, per quello che noi diciamo sempre, senza togliere nulla alla Via della Seta, che io stimo, ammiro e credo che ognuno, appunto, come, cioè io credo che ci sia una grossa discrasia in questo momento a livello globale, mentre le merci vanno dove cavolo vogliono, le persone no, ok? E questa è una cosa, cioè, che ci dovrebbe far riflettere tantissimo. Le merci le spostano dove vogliono. Le persone hanno dei limiti territoriali. Questa cosa ci spinge ad analizzare che questo sistema ha una grossa falla, ha un grosso buco, e quel buco è dato dal fatto che c'è un tentativo di controllare tutto quello che accade. Il controllo delle materie prime, il controllo delle persone, in modo che il pianeta è sotto controllo in un certo senso. Io penso che questo sia il disegno su cui noi a livello territoriale dobbiamo controbattere, dobbiamo riaccendere le menti, dobbiamo lavorare, tenere insieme i produttori e continuare a ripetergli quello che io lo faccio ormai da tanti anni, tra i vari soggetti territoriali che sono, come dire, in rete con tantissime aziende agricole. Riesco ad intercettare, ho intercettato, ho coinvolto, ho portato chiaramente c'è sempre quel tassello dell'affidarsi totalmente. Però penso che i tempi ormai inizino ad essere abbastanza maturi per capire che soprattutto sulle aziende giovani, e giovani per giovani non dico giovanissimi, ti parlo però di aziende di 30 anni, 35 anni titolari di questa età, no? Che per me sono più giovani perché ormai insomma, cioè, vado un po' più avanti. E quindi con loro vedo che c'è ponte, chi ha rilevato da poco le aziende familiari, allora su quelli qui a livello territoriale siamo intorno al progetto del pane. Si è capito che il pane può essere uno strumento per testare la possibilità di stare insieme, e poi per capire, perché questo stare insieme, mo diciamoci la verità, ma pure il sistema ce l'ha proposto, ci hanno proposto le filiere nel tempo, non è che non ci hanno mai detto come ci potevamo organizzare, le OP, ce l'hanno detto. Il problema è che noi abbiamo individuato nel percorso del distretto, questo è stato proprio il focus, ecco perché è il distretto non produttivo ma un distretto partecipativo. Non possiamo candarcela soltanto nei produttori, abbiamo bisogno della società, c'è bisogno che ci sia un'interazione tra persone, a prescindere da quello che accade, da quello che ogni persona fa. Io credo che, cioè, semplicemente, quando sono state create le civiltà, ma quando sono nate le civiltà, il modello sociale dei primi villaggi, cioè le prime persone si sono messe insieme, prima erano nomadi, poi hanno deciso di fare i villaggi, no? Perché c'era l'acqua e perché c'era la terra, un buon terreno da coltivare, perché quelli là si fermavano, dove c'avevano una terra fertile e capivano che non andare più a pescare appresso a mamma natura, ma che potevano usare mamma natura per raggiungere un proprio obiettivo. E semplicemente si erano distribuiti dei compiti. Tu fai questo, tu fai quello, tu fai quello. Cioè le comunità vivono di questo, non si può pensare che la nostra comunità debba necessariamente interagire con la comunità del Minnesota, non ha senso. È lo spostamento delle persone, la contaminazione delle persone che va generata, ma non è necessariamente, come dire, l'interazione di quelli che sono gli elementi troppo semplici per essere spostati a livello globale, il cibo. Il cibo, il pane, è un elemento semplice, vediamolo per quello che è. Invece oggi l'hanno trasformato in una future, in un bot, in un elemento dell'economia ingegneristica e finanziaria che è tutta loro. Abbiamo bisogno del pane che sia un elemento comune, un elemento scambiabile fra le persone che crea un'economia reale e delle relazioni vere. Posso E termina qui la puntata numero 9 di Griottosa. Prima di salutarvi e di darvi appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo che Terra Liquida ha bisogno di un furgone che deve attrezzare per le emergenze, e quindi trovate tutte le coordinate per fare delle donazioni al sito di Terra Liquida o al sito di Rivista Contadina, oppure scrivendo a terraliquida@autoproduzioni.net. Vi ringrazio moltissimo dell'ascolto e vi auguro un buon proseguimento.